sotterraneo, lì ferme a vederle e ogni volta a spostarle, a fare pulizia. Ma per carità di Dio, stava diventando un lavoro che non ha più bisogno. E guardi, ce l'ho per farmi sentire, quindi già va bene. Ottimo per la truppa, vai Marco. Ehi, scusate che mi ero allontanato per sentire messaggi audio. E quindi come siamo rimasti? Da controllare. Comunque lo spezzone era quello che faceva il fischio, dai. Come si forma quella specie di polverina bianca tipo ossidomi, quello è tremendo. Infatti ogni tanto con un pezzo di carta da cucina, fazzolettini, carta igienica anche, gli do una passatina, se necessario, poi un po' di disossidante, che però ho finito. Siccome non costa niente, il disossidante secco, il Treigot, quello che vende Fusano, mi pare costi roba di 8 euro, costava anni fa, adesso si era arrivato al minimo a 9 euro. Quello con la bottiglia rossa, non so se è presente, il Treigot, la marca. Sì, ma guarda, io ho un amico che c'ha la lavasecco, sai che loro la lavasecco usano la trilina, a parte il fatto che la vendono anche la trilina, però quella che a lui è molto forte. Mi ha dato una bottiglietta di succo di frutta. Io quando faccio lavori così che devo pulire e fare, mi metto dentro il pennellino e via. E do una bella passatina e pulisce tutto. Pulisce tutto, infatti quello di Gianni vuole ben pulito adesso, sarà sicuramente impastato dagli spray che gli ha messo, ma sicuramente io apro il mio e ce la fa lo stesso lavoro. Perché sì, veramente, perché l'ho detto io, lascialo stare sul 3009, il mio MP5 è una bomba, e poi iniziato a difettare. Siccome lui molte volte l'ha aperto, vedi, per cambiare il carretto, eccetera. Può darsi che abbia mandato troppo avanti il circuito pampato, perché c'ha delle vettine che non sono molto obbligate, hanno appena appena di gioco. E al momento in cui tu vai a schiacciare il BTT, va a toccare la punta del BTT, non il centrale, la punta del BTT va a toccare sulla punta del circuito stampato, e quindi vuole appena appena animato. E vedrai che già glielo faccio funzionare. KK, sì, Antu, quando non te ne uscire di casa, un consiglio che ti do per comprare radio, quando hai la possibilità te le compri, o le comprate piano piano, facendo tanti sacrifici, e poi alla fine, guarda, ti giuro, non ne vale neanche la pena avere tante cose per poi non usare. Basta avere le cose essenziali, ordinate, nuove, pulite, che funzionino, e tu sei a posto. Allora io ho 430, 140, 440 dopo 20 anni finalmente ho detto basta, e poi ho i due base della ICO che mi servono per fare attività amatoriale, ma ho tutto quello che mi serve, il resto è dentro le scatole e le altre le ho tutte vendute, basta, finito, e se no diventa un casino. Volevo la radio, però volevo prendermi anche un Rosmeter nuovo, Vamer, come si dice, quello che ti regola il stazionario un po', perché usando un certo tipo di radio, secondo me bisogna tenersi un po' più giusti, anche a meno dai va a pompare puro. Un Rosmeter Vametro, così si chiama, non me lo ricordo tanto bene adesso. Sì, Rosmeter Vat, metro accusatore d'antenna, ce n'è di strumentazione buona tu. Se tu metti l'antenna diretta su un 140, su un qualsiasi HF, che hai 1,2, 1,3 di stazionare, non ne fa assolutamente niente. Capito? Tiene una potenza media, visto che siamo tutti vicino, la tieni intorno ai 20-30 watt di portante, quando vai a modulare sei già sui 60, 70, 80, cosa vuoi di più? Va benissimo, P&P le trazionali rimangono più stabili rispetto a quando tu attacchi un lineare diretto. Vabbè, ma io non mi fido, non mi fido, se no prendo il 362, l'attacco, non mi fido molto io. Preferisco che rimangano belle stabili al di sotto, un apparecchio del genere, si bruci chi su, vai e fai tre insieme. E allora, magari intanto i 440 oramai li stanno regalando, cioè, con 50 euro in più rispetto a un 140, vai a comprarti un 440 e c'hai l'accordatore incorporato, capito? Accordi, c'hai tutto nella radio, perché c'hai lo smitter, c'hai il nosmetro e il wattmetro, tutto nello smitter della radio, compreso l'accordatore, quindi vado a trovare una radio di quelle e tu sei a posto. Con 350 euro di ricudine a barre, i 440, buono con 300 euro secondo dove vai a comprarla. Lo so. Cioè, una radio così, cioè, e poi, secondo me, il mio parere, secondo me se lì non rimane un MC60, secondo me non rende. Ci vuole anche un microfono del genere, ci vuole. Cioè, non rende come deve rendere, secondo me. O sbaglio. Guarda, io attacco l'MC60, ti attacco l'MB+5 e tu non sai che microfono sto usando, se non te lo dico. Non è così, Anto. Non è così. Quando tu inserisci il processore, le dai Mickey Gay, la radio fa tutto da sola. Io più di una volta ho modulato con l'MB+5, perché c'ho l'MB+5 col connettore Kenwood alimentato dalla radio, che l'ho comprato da una persona. E ti dico che va bene quanto l'MC60. Io mi ricordo Luca quando aveva il 140 usava l'MB+5 e usciva benissimo come l'MC60. È chiaro che se vuoi fare linea devi spendere altre 100 euro, perché un MC60 è sempre in prezzo, non lo paghi meno di dalle 70, 80, anche 100 euro. Quindi è chiaro che devi aggiungere la differenza. Però ti posso garantire che l'MB+5 sui K, e te lo dici uno che li prova, ne ha fatte tante, ma tante veramente, va molto bene, non ce n'è problema. La voglia va bene, cazzo. Sono convinto che ci rompiati occhi, guai. Cioè, esce un bel posto, esce. E esce come deve uscire, dipende sempre da cosa le dai di antenna. Queste radio escono benissimo, io mi sono fatto una cultura di queste radio, posso dire che a Sassari sono in pochi, mi sono fatto una cultura con questo tipo di radio. Io ho iniziato col primo 430, anzi bugia, ho iniziato col 757, la prima serie, comprata sempre a Mario Notari, nel 1986, qua a Sassari, perché io dal 74 all'85, sono arrivato a Sassari, quindi dal 74 all'84 io modulavo da Porto Torres, da casa di mamma, capito? Dall'85, quando sono arrivato qua in questa casa, perché prima ho abitato un anno in via Montegrappa con i miei soci, allora ho comprato il 757 da Mario Lottari, e dopo il 757 ho preso il 430, l'ho comprato assieme a Marco 131, già vivo in Vegeto, quindi l'ho comprato assieme. Ho iniziato da lì, li ho cambiati tutti, ho avuto qualsiasi serie che vuol dire, anche quelle praticamente con lo stadio finale a valvole, tipo il 720, l'820, l'830, l840, le ho avute tutte, quindi mi posso dire che mi ha provato di microfoni, perciò non ti preoccupare, l'importante è avere la radio, poi il microfono già va bene, un qualsiasi tipo di microfono da tavolo. Già non credo, via. Vabbè, poi già si trova. Ma pure l'MB+5, l'MB+4 non è che sei barato, no? Alla fine, spendendo qualche cosa in più, cazzo, trovi un MC60. Cazzo, io ho visto i prezzi, non è che sia tanto conveniente, no? Comprandolo nuovo. Sì, possiamo comprare nuovo. Io ne ho comprato due usati, uno ho pagato 30 euro e uno ho pagato 40 euro. Quindi non è che devi andare per forza a comprarlo nuovo. Ce n'è di gente che te lo può dare io stesso, se tu ti dovessi prendere e comprare un, non te lo vendo, ma te lo do ad usarlo, perché a me io non me ne faccio niente, non me ne faccio assolutamente niente, capito? Però non rimani a piedi, stai tranquillo, ce l'ho io. Il mio BP5 nuovo, ma nuovo veramente, pagato pochissimo, e c'è il connettore già Kenwood, e non hai bisogno manco di alimentazione, di batteria, perché prende l'alimentazione dalla radio, capito? È fatto proprio per il Kenwood, riesce veramente molto molto bene, perciò non ti preoccupare, l'importante è la radio, poi, te l'ho già detto. Le cose cammin facendo si aggiustano, caro Antonio, avanti Marco. Stavo guardando i prezzi su eBay dell'MC60 nuovo, caspita, non me l'aspettavo, 173 euro da uno, Italia, e 175 euro dall'altro italiano, una cosa folle, nuovo, è nuovo di negozio, una cosa allucinante, è salito un bel prezzo, ma addirittura c'è uno scemo, perché deve essere scemo, che dalla Spagna lo sta vendendo nuovo 306,29 euro, più la spedizione 18 euro, che si sono macchi, e uno dalla Germania 209 euro. Guarda, ti posso garantire che l'MC60 è già un microfono vintage per gli anni che ha, perché è uscito subito dopo l'MC50, io ho anche l'MC50 nuovissimo di pacca, lo tengo su 430 perché in banda laterale è troppo forte il 60, quindi quello non essendo amplificato, però è da tavolo, mi consente di uscire bene come il microfono preamplificato. In HF, perché sto usando quello in HF adesso, il 756 l'ho venduto, cioè tutti gli HF ho venduto, non solo il 756, anche lo IAS. Però ti posso garantire che quando l'ho comprato io nuovo, il primo MC60, lo pagai 120 euro, no, il primo, oddio, il primo che ho comprato era della Trio, Trio Kenwood, quello era lì e non ti dico quanto costava, però quando è passato Kenwood ho pagato 120 euro io da Media Globo, hai capito? Quindi immaginati tu quanto è salito di prezzo, ecco perché chi lo vende usato non te lo può dare meno di 80-90 euro, capito? Io l'avevo preso da Gianni, no? Assieme all'apparato. E... sì, adesso non mi ricordo se era una settantina, una cosa del genere. Credo di ricordare. Sì, ma vabbè, 175, vabbè, passi, ma 300 euro. Comunque il negozio vedo che c'è un bel feedback negativo, può darsi che sia un mezzo imbroglio, mi 300 euro. Pezzo unico, è nuovo ma ne ha uno. Probabilmente lo sta vendendo come se fosse una cosa, non come se fosse, è una cosa vintage, però lo sta vendendo a prezzo di vintage, cioè pagato col sangue, 306 euro e 29 centesimi, ma mi sa che non gliene compra nessuno. Sì, magari trova quello che lo compra, giuro di. Io di MC60 nuovo, in buonissime condizioni, l'ho venduto ad una persona che le serviva, gli ho venduto 50 euro. No, perché ci conosciamo, perché insomma gli ho voluto fare un prezzo proprio da persona che conosco, altrimenti non l'avrei mai dato a 50 euro. Però l'ho venduto a 50 euro, quindi come vedi, se trovi la persona giusta che non ha bisogno di guadagnare, di speculare, te lo dà a un prezzo equo, perciò. Come lui d'altronde ha venduto a me l'MB più 5 a 40 euro, quindi insomma, ci siamo fatti praticamente lo scambio, però quanto ti ripeto, l'importante è avere la radio e poi il microfono già si trova, non ti preoccupare, vai di prima. Io quando potrò lo faccio, cosa vuoi ti dica? Adesso non ho la verità, non ho le possibilità adesso, perché anche devo pensare a certe cose. Una cosa alla volta sto facendo. L'altro giorno me la sono messa, ho comprato delle staffe, delle cose, mi sono messo l'antenna più alta. E poi mi ho sistemato il cavo. Ringrazio una persona che è stata brava con me, la ringrazio tanto. La verità, se mi sta ascoltando la ringrazio. Poi, una cosa alla volta, piano piano, cosa devo fare? Ma infatti te lo sto dicendo, te lo dico per esperienza vissuta, non te ne uscire fuori di casa per avere belle radio, belle antenne e bei microfoni, perché io ho speso un patrimonio, per cui vedere lì, non dico a marcirsi, ma più di una volta sono rimasto un po' così, perché se non le usi questo tipo di radio si rovinano, quindi devi usarle. Allora ho preso una decisione drastica e molto molto veloce, ho tolto tutto, ho messo quello che mi serve, che uso, che accendo tutti i giorni e uso, e le altre le ho tutte vendute, e quelle che non ho vendute le ho messe dentro l'armadio, ma sono radio che non si guasterebbero mai, perché insomma sono radio abbastanza robuste, ma tipo 440 non è una radio da lasciare ferma, perciò non me la sono sentita più di tenerla, basta, ne ho avuto 8, mi è bastato così. Va bene, dai ragazzi, io vi saluto e vado a cenare. Ok, ciao Marco, ciao Antonio, salutatemi a Gianni se dovesse rientrare. Poi già mi aggiorno per telefono con Gianni. Riprende Marco, ascolto i finali, poi chiudo e vado a cenare. Buonanotte a tutti. Sì. Eia, ok. Ciao Claudio, buonasera, buon tutto. E ci sentiamo quando capita. Quindi Gianni si è assentato, mi ero un po' distratto. Antonio, vuoi per i saluti? Appa, salutone Claudio, ce la risentiamo alle prossimine. Ciao, ciao. Avanti Marco. Eia, Gianni mi aveva chiuso, sta cercando di mettere a posto il mic. No, forse va chiuso, forse devi abbuccarlo. Ti devi abbuccare un coso, come si chiama? Questo si già messo a fare. Il microonde doveva buttare, magari poi doveva portare anche il cane, non lo so. Ah, buttare, avevo capito, portare il microonde, no, buttare. Sì, probabilmente doveva portare il cane e avrà fatto tutt'uno. Adesso vabbè, solita routine, adesso anche io chiudo, poi al limite se deve chiedere controlli Gianni basta un messaggio e si fanno le prove, però ci vuole un po' di pazienza, quando comincia la roba non andrà bene, che non riesce a capire l'origine, a me saltano i nervi francamente, mi voglio pigliare e sbattersi tutto nel cassonetto, non ho pazienza tanto. Cazzo. Comunque quei connettori là Marco mi avevano fatto girare le palle pure a me, lo sai. Ah, quelli che ti ho detto, praticamente il connettore PL che ha la riduzione che si avvita per le RG58, sì, mi ricordo che poi non lo so, ho sbagliato qualcosa io, c'era qualche filettino che pure che col tester non era in corto. Non capisco, comunque non ne ho proprio più usati. Ho preso quello che ha direttamente il foro con la filettatura per il 58 fisso, però senza roba che si svitta. Eia. Ma l'ho fatto incassare parecchio quello lì, non faceva bene massa, uno schifo sono. Invece questi abitare sono i migliori che abbia mai avuto, perché fanno bene massa e non danno problemi. Secondo me Anto, comunque a dirla tutta, non era lo spinotto in sé. Secondo me qualche saldatura magari fredda che al momento problemi non ne dà, però poi ha cominciato a darne, allora l'ho risaldato, però niente. No? Poi te l'ho detto, bisognerebbe ordinare quelle in bacchelite. Solo che io, se a me me ne servono due non ne posso comprare 20 su internet, capito? O ci si mette d'accordo con più persone a dire che a me ne servono due, a me tre, a me quattro, si fa un ordine unico, almeno per ammortizzare la spedizione, capito? Poi quando arriva si divide in tutte le persone che l'hanno comprati. per me avrei messo solo quelli, un bachelit. Va bene, vediamo se Gianni è entrato, se no chiudo anch'io. Ma stai usando tipo i miei, quelli bianchi? Sì, sì, sì, praticamente sono quelli di Fuzzaro, che hanno l'isolatore in, che materiale è? È bianco, a me sembra plasticaccia proprio è, perché se surriscaldi, quando vai a saldare ci tenesci anche quelle, l'isolatore, capito? Adesso non mi ricordo il nome della plastica, non mi viene proprio il nome di quel tipo di plastica, porca miseria. Dicevo Teflon. No, perché molti sbagliano saldandoli. Non c'è come li saldo io. Io poche parole, li metto direttamente, li faccio in inticolor ragno, appena appena li do una... Cerco di non farli scaldare molto, capito? Certo, non troppo, non troppo, è così, dovrebbe essere Teflon di norma regola, a me sembra plasticaccia, perché cioè scaldi appena appena di più il coso e tenesce proprio il dischetto, l'isolatore tenesce, ma plasticaccia sembra a me, sarà tutta roba fatta in Cina, me. Altro che Teflon. A me non succede, anzi io ti dirò di più, se ti faccio vedere quelli che ho io, che sono ancora da nuovi da mettere cose, io ce l'avevo anche macchinite uno, me. Ce l'ho avuto, l'avevo preso per fare la GBC, però sempre senza adattatore, sempre adatto per il coso, capito, sempre adatto per l'RG58. E invece quello che arriva dall'antenna di su ovviamente è per il 213, perché io lo cavo grosso, altrimenti troppa perdita, nel mio caso avrebbe dato troppa perdita quello sottile, è comunque rigido, è una palla il 213, cioè se me l'avessero detto prima avrei preso l'H155, sottile come il 58, però grosso modo ha la stessa perdita ridotta che del 213, capito? Quello è buono anche in UHF, capisci a me? Sì, è così, cioè, però i rispettoni cosa li usi? Quelli con l'R58? Sì, sì, Anto, per flessibilità, per comodità li uso col 58, anzi me ne manca uno, prima ne avevo tre spezzoni, uno era quello con quei PL maledetti, proprio nella mondezza l'ho buttato, e ne ho solo due, me ne serve un terzo, perché, che ne so, ti faccio un esempio. Se dovessi mettere cosa che non capita, tipo il linearetto, il filtro d'obbligo, il filtro passa basso, però mi manca il terzo spezzone per mettere lo strumento, capito? Per mettere il rosmetro, wattmetro, che però quello lo si usa una tantum, in realtà, non è che lo tengo fisso. Meno roba ciò, e addirittura lo sai che tanto se metto l'antenna diretta guadagno forse 1 o 2 dB in ricezione e forse anche in trasmissione, lo sai, con l'antenna diretta al baracchino senza il filtro. Vabbè, in trasmissione sì, perdo molto, in ricezione però un po' perde, me ne sono accorto, anzi no, adesso non tocco nulla, è tardi ormai, tanto sto chiudendo. Magari, ma non le fa niente, perché il cavo grosso ricompensa tanto, poi è come che abbi, io lo so, mi ha provato uno spezzone, cambiava da giorno alla notte, cambiava. Io mi ricordo tanto tempo fa, stiamo parlando degli anni 80, mi ricordo che a casa di Pomponio lì in via Rizzetto usava gli spezzoni col cavo grosso, ma erano rigidi, mamma mia, corti ma rigidi, non una palla. Pensa che l'H1000 è anche peggio, l'H1000 è come il 213 come dimensioni, però ha il centrale rigido, è un incubo quel cavo. Lo so, ah, che ti vuole un raio, vai. Span, un cazzo le rispondo io. Chi è? Di quel così Span. Span. Call center, cos'hai? Deve essere il call center, deve va a carriera, vai. E una volta, con questi call center dei telefoni, una volta ho sbroccato un po' me. C'era questo romeno, sempre con la scusa di verificare i dati, di abbassare la bolletta, ma insistente, una struccola volta gli ho risposto male. Ho sbottato proprio, è quello a voci, che ero razzista. Ma se tu sei romeno, che colpa ne ho io? Io ho preso a voci perché era un rompiballe, non perché era romeno. Insomma, alla fine la colpa è sempre, capito? E tu, oltre che ti rompono le balle, che è tua la colpa? Ma poi anche parlava sempre l'italiano. Cioè alla fine non. Vabbè. Perché non hai fatto bene a mandarle a fanculo. Ehi, ma poi si prendono la parte grande, dice, ma io sto lavorando, sì, ma non puoi rompere le balle a me, fingendo che non risulta una bolletta, che ti serve il codice cliente. A loro serve il codice cliente perché i più lonfi, quelli proprio senza scrupoli, firmano il contratto a tuo nome, come che tu avessi detto, sì, accetto, capito? Firmano, comunque fanno la, e poi ti trovi due bollette magari. Quindi il codice cliente non si dà a nessuno, né della, come si dice, dell'Enel, né della roba telefonica. E anche a casa passavano, tutti con la targhetta addirittura, salve, tutti seri. Ho detto, questo è un controllo delle proposte minimo. Invece dice, salve, siamo qui per applicare una riduzione della bolletta perché dalle nostre verifiche lei sta pagando troppo. Ha detto, ma cosa ne frega a lei se pago molto? Mi piace pagare di più, guardi un po'. Ah, quindi a lei va bene così? Sì, sì, a me va bene così. Buongiorno, ciao, chiuso. Niente baruguru, era. No, sai cos'è? Quando arrivano con questi toni quasi autoritari, che trovano l'anziana che non ne capisce un cavolo, se la girano come vogliono. Capito? Con questo modo perentorio di parlare, quasi ti fanno come apparire in difetto mi, e subito ti tentano di farti firmare roba, almeno per gli anziani così so. Numero bolle, il numero codice cliente, sempre lì vanno a parare, capito? Oppure è mascherato da questionario, capito? Tanto vengono con la scusa di un questionario, no? Che ti fanno delle domande sempre di solite menate che riguardano l'argomento, poi però tentano sempre di farti firmare un qualcosa e poi è un contratto quello, perché se vai a leggere, cioè anche un cieco se ne accorge che è un contratto. E non solo questi dell'Enel, degli Enel Energia o della roba telefonica, anche gente che vende, come si chiama? Abbonamenti librari, tipo Mondo Libri, tutte quelle cavolate là, dai. Sì, già lo so. Bisogna stare attenti per un po' di niente rompe, un po' di niente metto di mezza. Bisogna stare attenti come sono le cose, ti possono fregare, ti possono. E poi anche con la posta. Vabbè, soprattutto se cose online, eBay, tutti questi account, no, Amazon. Ogni tanto arrivavano le email fasulle, tipo io non compravo roba per mesi, e dice controlla le tue attività online del mese tal dei tali, no? Dice controlla i tuoi ultimi acquisti. questo è quando avevo il vecchissimo indirizzo email, no? Poi se tu andavi a controllare l'email o i collegamenti a cui ti portava erano tutti siti truffa, cioè tu eri convinto di entrare sul tuo eBay con nome utente e password, invece era un sito fasullo che sembrava quello di eBay o delle poste o tante altre cose, però poi te ne accorgi proprio dalla barra degli indirizzi, oppure dall'IP, da altre cose te ne accorgi, insomma. Sì, mezzo truffaldini so che fa niente, per carità. Stare attenti, bisogna stare, molte volte, più che ti sembra serio c'ha la rogna, Ricordati, chi è che l'aveva detta quella frase? Il furto è l'anima del commercio. Poi a qualcuno è capitato, sei di quei nigeriani, quelle truffe nigeriane o cos'era, tipo, anche per posta elettronica, lei ha vinto $1 milioni, allora gli ho mandato un messaggio in inglese. In italiano è una parolaccia, tipo di... Non si può dire, dai. Dimmi già parola o papo. È una cosa più forte, riferito anche alla madre, sì, era una cosa del genere. Dice, $1 milioni, dallo a chissà, no? C'è successo. Come dizia qualcuno, quella mamma tua! Ah, Paoletto, mamma mia quanto urlava. C'è successo, poveraccio. E quanto ha rischiato me. Perché se lui veniva un picco di pressione, o gli veniva un ictus o un infarto. Una volta la madre l'aveva detto anche al baracchino, dice, se succede qualcosa, dice, lo dico a tutti che sono stati l'IGB a far morire mio figlio, capito? Ce lo facevano pagare per buono e per nuovo. E tutti quanti credenti. Sì, ma pure lui, cara. C'è pure il figlio che te la cercava. Faceva a caso gli segnati degli occhi strani. La calza. Che sbetteramento, cara. Ehi, poi certe volte no, magari era di malumore, no? Perché gli mettevano la portante, poi entravo io. Paoletto, caro, e allora si scioglieva tutto, faceva un passaggio da tre quarti d'ora, ma poi le portanti a pezzi lo facevano, mamma mia, come si era sciolto si incazzava poi, mamma mia, bene a tu, io cedo la mano, chiudo e ci sentiamo quando capita, ok? Buona serata con tutto, buona cena, ma penso che abbia già cenato. E se no, buona cena pure, ok? Ciao agli ascoltatori anche. Ciao a tutti, ciao, bene. E scappa, dai, salutoni, dai, Marco. Secondo me se ritornerebbe qualcuno ti riaccendono gli apparecchi. Ciao. Buonanotte. Ehi, sai che qualcuno l'aveva ipotizzato, gli volevano anche regalare il baracchino, piazzare l'antenna, perché ormai, cioè lui è anziano, ormai non succede più quello che succedeva 30 anni fa, però la sorella non vuole, tassativamente vietato, non ne vuole più sentir parlare i baracchini. Non intendi, no, ormai no, ormai siamo pochi, non succedono più quelle cose là. Contro Paoletto. E poi siamo tutti grandi, ormai. Oddio, già c'è uno giovane, magari Paoletto se lo sente, si attacca. Te immagini? Quello si attacca subito a me, riguardi in Nadi. Paragnotas. Oioia. Cos'è questo casino? Mi ha dato in oggi, sembra di essere allo zoo. Vabbè, ciao Antonio, di nuovo, buonanotte, buon tutto, dai, sentiamo, ciao. Ciao, buonanotte.